Ecco, io direi che possiamo iniziare se ci accomodiamo gentilmente, così diamo inizio alla nostra serata. La Biblioteca Provinciale Claudio Augusta ha questa cattiva abitudine di registrare tutti i suoi appuntamenti e questa cattiva abitudine nel periodo del Covid è diventata un diciamo, materiale preziosissimo perché di fatto è stato utilizzato, ascoltato da tantissime persone e a tutt'oggi ci seguono e chi non ha la possibilità di venire a partecipare fisicamente alle nostre iniziative comunque le può riascoltare. Ma soprattutto la cosa più divertente ed interessante è che si è storicizzato. Abbiamo 20 e passa anni di registrazioni per cui sta diventando anche un materiale di interesse documentale. Ecco, un po' una storia della comunità italiana, una storia della cultura italiana in Alto Adige che passa anche attraverso questi podcast molto, diciamo, genuini perché non vengono elaborati ma sono esattamente la restituzione fededegna di quello che è stato, di quello che è stato detto e presentato negli anni, a partire dal 2004 mi sembra, insomma 20 anni buoni di attività, di personaggi, di argomenti e quindi anche di narrativa locale. Tra questi, ripeto per il registratore, tra le 670 circa iniziative che troverete, troverete anche le precedenti presentazioni dei libri di Clambaggio, perché questo appuntamento non è il primo che abbiamo avuto con il nostro autore, con Claudio Bianchetti, ma è uno dei tanti che abbiamo potuto organizzare insieme in questi anni, a partire da Fiort Italia, Il destino gioca a dadi, un libro che abbiamo presentato ancora nella vecchia sede di Via Mendola, vero? Ed è stata una serata molto interessante, anche perché il nostro autore si muove e sperimenta anche diversi generi letterari, quindi quello era un più poliziesco, diciamo, e poi ci sono quelli più intimisti, come nelle successive pubblicazioni, La fontosintesi del dolore, oppure Mariposita, allungami la vita, per arrivare poi al libro ambientato in Val Gardena che abbiamo presentato pochi anni fa, prima del Covid, sempre in questa cornice. Questa sera abbiamo il piacere di averlo di nuovo con noi, di avere con noi anche, e ringrazio Cornelia Dell'Eva in veste di moderatrice, e abbiamo anche, torniamo a trovarci, vero? Con Patrizio Zindaco che darà voce appunto a degli aspetti e dei punti salienti di questa interessante narrazione. E quindi io direi che vi lascio subito in compagnia dei nostri ospiti, ma come sempre ne approfitto per darvi alcune informazioni. E quindi l'appuntamento che vi voglio segnalare prossimo è quello del 28 di maggio alle 17:30 qui in questa sala con Il nemico di Mussolini, la presentazione appunto di un libro con Stefano Carretti, Antonio Testini, Vincenzo Calì e Guido Margheri. Ecco, quindi nel centenario della morte, nell'anniversario di Giacomo Matteotti, noi ci troviamo e parleremo di Giacomo Matteotti e della sua storia di un eroe appunto dimenticato. Poi un altro appuntamento è quello di giugno, martedì 4 giugno, con Noi rompiamo il silenzio, parlano le persone che hanno subito gli abusi sessuali, un libro di Veronica Oberbichler, e sarà con lei anche Thomas Kager e in dialogo con Cristina De Paoli che è una psicologa e una psicoterapeuta. Infine, ancora ve ne segnalo uno, il 29 di maggio, ho saltato un po' di date così, Il mite Caprone Rosso, vita breve di Norbert Kaser, questa volta di nuovo siamo insieme ad un autore dell'Associazione Scrittori e Scrittrici di Bolzano, e questa volta sarà appunto Roberto Masiero che dialogherà con Alex Marcolla. Se avete piacere, vi iscrivete alla biblioteca, è tutto gratis, potete aderire ai nostri servizi, ma soprattutto ricevere queste informazioni. Come sapete, ogni settimana noi organizziamo diverse attività, non le elenco tutte, ma sono attività di incontro, di promozione e di suggerimenti di lettura, chiaramente. Grazie e buona serata a tutte e a tutti e grazie ai nostri ospiti. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Grazie a Valeria Trevisan per queste parole introduttive, direttrice della biblioteca in cui ci troviamo e preziosa ospite della serata di oggi. Io mi trovo qui beata tra gli uomini, come si dice, incastonata e ovviamente vi presento a mia volta la voce narrante di questa serata che ci accompagnerà, Patrizio Zindaco, e ovviamente il nostro autore di cui andiamo immediatamente a parlare. Cominciando dalla copertina, ovviamente. Clan Baggio, Ironta. Due parole che ci dicono subito che il nostro autore è molto esigente rispetto ai lettori, due parole misteriose, diciamo così. Devo anche dire che ripone bene le sue aspettative, a giudicare dalla sala piena anche in una giornata come questa. La pioggia, il Giro d'Italia, insomma, chi è qui ha proprio voluto esserci, dobbiamo dirlo. Un bel colpo d'occhio, Sì, una bella platea, decisamente. Bene, cominciamo allora col dire che Clan Baggio è uno pseudonimo. Io conosco Claudio da poco, a dire la verità, forse sono l'ultima in sala ad aver scoperto questo pseudonimo, questo nome d'autore, Clan Baggio, che è un mix di più nomi di fatto. Sì, è un acronimo dei miei quattro nomi di battesimo, Claudio, Amedeo, Battista, Giovanni. L'hai voluta fare proprio difficile. Sì, l'ho ripresa da 40 anni fa, quando avevo fatto un'altra iniziativa. Claudio Bianchetti, dunque, imprenditore bolzanino che ha scoperto questa grande passione per la lettura molto tempo fa, a dire la verità, e adesso ha deciso di coltivarla veramente. Abbiamo sentito numerare i titoli dei suoi libri precedenti, oggi presentiamo questo libro tutto nuovo. Un libro che ha un incipit che già, come dire, cattura il lettore, no? C'è un editore disperato perché ha in mano un manoscritto interessante sicuramente, ma che promette molte polemiche, un manoscritto dirompente, e si sta chiedendo se pubblicarlo o non pubblicarlo. In sostanza, sarà un bene, sarà un male pubblicarlo, sarà un bene alzare il velo su il mondo dell'arte che è così misterioso e così pieno di tante cose, ne parleremo nel corso di questa serata. A scrivere questo manoscritto, che poi leggeremo perché praticamente è il libro che abbiamo in mano, è Costantino Morelli. Esatto. Cominciamo da qui. Vuoi presentarci questo protagonista? Chi è? Cosa fa? Questo Costantino Morelli è un imprenditore che fino a 50 anni circa aveva due piccole attività, e poi dopo, per caso, a una fiera dell'arte, è andato con questa sua compagna alla fiera dell'arte e ha visto un quadro. E questo quadro lo ha sconvolto. Questo quadro si chiama appunto Ironta. E lui, davanti a questo quadro, non ha capito come mai si trovava così spaesato, cioè vicino a lui, cioè attorno a lui non c'era più nulla, non c'era il tempo, non c'era lo spazio. Cioè lui è rimasto folgorato da questo quadro. E allora ha parlato poi dopo con la gallerista che effettivamente vendeva i quadri, e ha scoperto che era di un certo Victor Vasarely, che lui comunque non conosceva, perché lui non conosceva neanche l'arte astratta, lui di arte non se ne intendeva. E così ha iniziato a innamorarsi di questo Victor Vasarely, ecco perché il titolo Ironta, pazzo per Victor, perché è impazzito per questo artista, e ha cominciato a studiarlo e poi dopo ha cominciato a invaghirsi sempre di più, finché, come ci sono i veri cultori dell'arte, studiarlo non gli è bastato più, ha cominciato ad acquistare i suoi quadri. Vogliamo sentire un po' le parole di Costantino? Certo, perché il libro si apre in pratica con un saluto di questo Costantino che consegna il manoscritto a suo nipote sapendo che dopo poco morirà. E quindi lui dice a suo nipote: mi devi assolutamente, che il nipote lavora in una casa editrice come editor, tu devi assolutamente pubblicarmi questo mio manoscritto. E vogliamo sentire allora questo saluto postumo del protagonista, la parola a Patrizio Zindaco. Cari amici, nel momento in cui terrete in mano questo libro, io non ci sarò più. Sarò passato da tempo a miglior vita, per citare una stravagante perifrasi eufemistica di ispirazione cristiana che non mi appartiene. Vi racconto la storia di uno spezzone importante della mia vita, così come l'ho narrata al mio adorato nipote Amedeo una decina di anni fa. Fu durante un fine settimana e parlammo a lungo in quei giorni, o forse dovrei dire che fui io a parlare a lungo, a raccontargli le mie vicende. È lo stesso mio nipote cui consegnerò fra pochi giorni questo manoscritto. Lui lavora da un po' di anni presso una nota casa editrice e nutro la speranza che dopo la mia dipartita sarà in grado di farla pubblicare. Ora, nelle precarie condizioni di salute in cui verso, contemplo insensibile il crepuscolo della mia vita che scivola inesorabilmente verso l'oscurità della morte che mi inghiottirà per sempre. So che mi resta poco tempo da soggiornare su questo piccolo pianeta. Per questo ho voglia di farvi sapere come è nata la mia idea del VIC, il Vasarely Italy Center. Considerate questo racconto un omaggio, un ultimo mio saluto all'artista Victor Vasarely, che ha cambiato la mia vita e quella, io lo so, di tanti altri artisti che si sono giovati, al contrario di me, della sua presenza e vicinanza. Avrete compreso che non cerco altri riconoscimenti. Non ho l'aspirazione di entrare nella storia della mia città e men che meno di sostare nei ricordi per luce riflessa del grande artista. Che senso avrebbe per un dead man walking all'ultimo miglio quale io sono? La mia vuole essere solo una testimonianza della grandezza di quest'uomo. E al contempo vorrei puntare un riflettore sul mondo dell'arte e sullo scempio che se ne fa. Vedete, alla mia età mi concedo il lusso della schiettezza, per cui dico ciò che penso, faccio ciò che dico e rispondo di quello che faccio. Converrete con me che non è un lusso da poco. E tuttavia, quando leggerete questo romanzo, ci sarà chi salterà su dalla sedia, venendo a conoscenza degli imbrogli che ho compiuto. Ebbene sì, me ne addosso la responsabilità, ma non preoccupatevi. La mia autodenuncia non rivelerà con precisione le mie frodi e, di conseguenza, non potendola individuare, nessuno saprà mai chi sono i danneggiati. So che molti di voi resteranno delusi. I miei concittadini e tanta altra gente mi ricorderà come un uomo di alta caratura morale, onesto, corretto, un uomo giusto, stimato, benefattore. Benefattore, sì. Uomo giusto, no. Non lo sono stato. Non per un certo periodo, quantomeno. Confesso di aver costruito la mia fortuna sulle sabbie mobili dell'inganno, dalle quali per tempo sono riuscito a uscire. Sì, devo le mie ricchezze e la mia fama alla frode, a un reato di cui non dovrò rispondere, vuoi perché sconosciuto, vuoi perché troppo lontano, caduto in prescrizione, vuoi infine perché la prescrizione, quella definitiva, quella inappellabile della mia esistenza, fra poco agguanterà anche me. Mi consola il pensiero che non ho danneggiato nessuno e che anzi, grazie a questi raggiri iniziali, sono stato di aiuto a tante persone. Con ciò non intendo giustificare machiavellicamente quanto fatto. Quando leggerete il mio racconto, capirete, come avrete capito in questo momento, che non provo alcun rimorso per le mie azioni. Non chiedo dunque perdono e nemmeno comprensione. E pazienza se la vostra stima nei miei confronti subirà qualche ammaccatura. Nel mio stato, cosa volete che mi importi? Ma dovevo farlo. Avvertivo questa necessità nel mio animo, che non mi dava tregua e che dai fondali della mia coscienza saliva, diventando sempre più rumorosa e ingombrante. Così ho deciso di documentare la seconda parte della mia vita, quella della scoperta dell'arte del grande Victor, come confidenzialmente mi davo licenza di chiamare Vasarely, quella che mi ha riservato la grande gioia di conoscere il suo talento, la sua genialità, e che mi ha indotto nel mio piccolo a cercare di valorizzarlo, lui che, secondo me, è ancora molto sottovalutato. Del suo valore vi parlerò nel mio racconto, così come vi parlerò del mondo marcio dell'arte. Leggendolo, rifletterete su certi meccanismi perversi che lo regolano e di cui anch'io, come ho già appena ammesso, ho disinvoltamente e impunemente approfittato beneficiandone. Forse capirete meglio le distorsioni che compromettono la sua natura, la sua bellezza. Apprezzatela, godetela, vivetela l'arte, senza mai però dimenticare di aprire gli occhi su questo mondo stupendo, ma pieno di falsità. Siate severi osservatori. Essa è un soffio divino dell'umanità, ma troppo spesso viene manipolata, violentata, stuprata da personaggi ignoranti, avidi, senza scrupoli, da gente senza arte né parte, per restare in tema. Nonostante ciò, credetemi, la nostra vita su questa terra senza arte sarebbe una vita grigia, insignificante, deprimente. L'arte, l'ho sempre sostenuto, è l'unico balsamo contro le fatiche della nostra esistenza. Tenetelo bene a mente. Se il mio racconto vi sarà piaciuto, dedicatemi un benevole pensiero, una breve preghiera. Sono agnostico, non so se cosa mi attende dopo la mia partenza, ma non si sa mai. Buona lettura e buona vita a tutti. Costantino Morelli. Il libro di Costantino Morelli si apre dunque con questo saluto che gli amici leggeranno dopo la sua morte e ci parla subito, è una confessione, insomma, ci dice che ha commesso un reato e si autoassolve. A quel punto noi lettori vogliamo sapere innanzitutto cosa ha combinato e anche capire se anche noi lo assolveremmo o no. Questo è un po' il motore della storia. Il libro di Costantino si presenta poi sotto forma di dialogo. Esatto. Un dialogo con il nipote. Come mai questa scelta? Ma ti dirò che non mi è venuta in mente subito, a dire la verità. Volevo fare una narrazione in terza persona. Poi, siccome però i miei romanzi sono prevalentemente costruiti su una narrazione dialogica tra due o più persone, ho pensato a questo personaggio che aveva un nipote che prima non conoscevo quasi perché non lo vedeva quasi mai. Ho pensato appunto a un weekend trascorso con questo nipote che gli raccontasse appunto la sua vita e di come era cambiata la sua vita. Forse anche un bisogno, no? di raccontare a un certo punto, di confessare, viene da dire? Beh sì, l'ha detto anche, no? Cioè dai fondali della sua coscienza era salito questo impeto, proprio questo bisogno di dire questo segreto, perché che valore ha un segreto che nessuno conosce, no? E quindi lui voleva far sapere alla gente che comunque aveva fatto questo reato, ma che comunque questo reato non aveva danneggiato nessuno. È una forma letteraria molto interessante questa del dialogo e anche proprio il fatto che sia fra nonno e nipote, no? Un uomo giunto al termine della sua vita che in realtà in questo libro non c'è solo la confessione, ci sono moltissime digressioni, no? Gli argomenti più svariati. Costantino Morelli era un imprenditore, quindi si parla di economia, di imprenditoria, ma si parla anche di comunicazione, di linguistica, di storia, proprio il nonno che racconta al suo nipote. E in questo contesto tutti questi particolari, diciamo, acquistano un senso. Spesso il nipote dice: nonno, questa cosa l'hai già detta, no? Sì, sì, questo è vero, sì, esatto. Ma in realtà nel racconto poi dopo ci sono denunce diciamo, critiche un po' per tutti, per giornalisti, anche per funzionari bancari, per galleristi, per critici d'arte. Questo è un signore a una certa età che si libera un po' di tutto. Allora, noi sappiamo che anche Claudio Bianchetti, come Costantino Morelli, è un imprenditore, è appassionato d'arte. Sappiamo anche che quando qualcuno scrive un libro ci mette del suo. Sappiamo anche che esiste un io letterario e un io reale, per carità. Però la domanda nasce a un certo punto. Ma cosa hanno in comune? O quanto Claudio Bianchetti c'è in Costantino Morelli? Ce n'è. Perché comunque, chiaramente, molto del romanzo è romanzato, appunto, molto del racconto è romanzato, ma sicuramente io sono un fan di Victor Vasarely, sono un appassionato di Victor Vasarely, ho anche scritto una monografia in tre lingue di Victor Vasarely e dell'Optical Art, ne ho scritto un altro. E sì, lui per me, secondo me, è un genio del XX secolo. E l'ha detto anche lui stesso, che si rammaricava di essere nato con 50 anni di anticipo. Chissà cosa avrebbe fatto dopo. Per lui è morto nel 97, all'età di 91 anni quasi. Ci hai raccontato questo momento in cui Costantino vede per la prima volta il quadro Ironta di Vasarely. Sì. È un episodio che è accaduto anche a te, così come l'hai raccontato? È un tratto autobiografico questo? Yes. Ce lo puoi raccontare di nuovo questo momento? Cosa ti ha preso? Nel frattempo immagino che questo sia questo Ironta. È Ironta, sì. Però non è il vero Ironta. Questo è un Ironta rifatto dopo 40 anni, perché poi dopo Vasarely faceva rifare i quadri dal suo atelier. Comunque... Sì, sono rimasto estasiato, non come nel romanzo ovviamente, ma comunque sì, sono rimasto attratto da questo quadro, perché prima io mi interessavo d'arte, devo dire, ma non di arte astratta. L'arte astratta proprio non la capivo. Ecco. Poi, come c'è scritto anche nel romanzo, il nipote gli chiede al nonno: ma come si fa a capire l'arte astratta? L'arte astratta non puoi capirla, ti deve dire qualcosa, ti deve emozionare. Poi è chiaro che se conosci un Mondrian, se conosci un Hartung, se conosci un Polyakov o altra gente, sai da cosa è composta la sua idea. Se conosci un Fontana, un Lucio Fontana, quello dei tagli, cioè uno dice: ma cosa c'è di bello? C'è un taglio fatto con una lametta, cioè, però non capisce esattamente il messaggio dell'artista, no? Di andare oltre la tela, dello spazialismo e tutto il resto. Quindi effettivamente poi dopo si capisce anche da questo punto di vista chi è l'artista quando già solo vedi il quadro e cosa ti vuole trasmettere, ma in realtà un quadro astratto ti deve soprattutto emozionare. E qual è l'emozione, guardando Ironta, che hai sentito nascerti dentro? Beh, sono passati tanti anni. So che ero rimasto attratto, ed è così che io ho conosciuto Victor Vasarely, questo è vero. Allora, sentiamo come invece Costantino racconta questo quadro. Patrizio Zindaco, di nuovo. Era un dipinto su tela di dimensioni normali, un 80x50, lo ricordo bene. Caro Amedeo, ancora oggi non so cosa significhi questo nome, Ironta. Fu la prima opera che vidi di Victor Vasarely. Rimasi folgorato da quel quadro. Era un dipinto su tela, astratto e geometrico, con dei colori vivi, giallo, verde, blu. Lo ricordo benissimo. Ce l'ho ancora impresso nella mente. Lo esponeva alla Galleria Visconte di Milano. Rimasi a lungo a osservarlo, affascinato per motivi che non riuscivo a comprendere, anche perché fino a quel momento, nelle mie sporadiche visite a musei e fiere dell'arte, prediligevo i quadri figurativi. I quadri astratti non avevano mai suscitato in me particolari emozioni. Anzi, a dire la verità, non li capivo proprio. Ma quel quadro, non riuscivo a distogliere lo sguardo da quella tela. Non riuscivo ad allontanarmene. Non so come spiegarti. Mi ipnotizzava, ecco. Lo guardavo e come per incanto in me nascevano sensazioni remote e risuonavano melodie dimenticate. Quella più ricorrente era il più bel lavoro di Roger Waters. It's a miracle, another miracle. Sentivo le note della musica e avvertivo questa sorta di prodigio, di miracolo, questa sensazione ignota che mi allargava. Ero stregato, non riuscivo a staccarmene. Neanche mi rendevo conto di stare lì impalato a osservarlo. Una sensazione incredibile, meravigliosa. Il mondo intorno a me non c'era più. Mi sentivo sospeso nel tempo e nello spazio. Non so come spiegarti questa magia. Quel quadro aveva un'energia che mi soggiogava in modo scandaloso, come se incursioni barbariche attaccassero le pieghe del mio animo. Quel quadro interagiva con me, mi parlava. Capisci cosa voglio dire, Amadeo? Sì, caro. Ancora adesso, al ricordo, provo quel sentimento di smarrimento, di rapimento. Se l'arte, come disse qualcuno, ha il potere di catturare lo spettatore, beh, io ne rimasi prigioniero, posseduto, nel vero senso della parola. Un'emozione tanto forte quanto impalpabile. Era come se quel quadro mi volesse rivelare la presenza di un segreto, ma non il segreto stesso. Chissà se mai capiterà anche a te di restare rapito da un dipinto che ti ipnotizzerà con un magnetismo, come posso definirlo, misterioso, oscuro, dal vago sapore inquietante, tanto da scatenare in te una reazione psicologica ed emotiva inspiegabile. A me successe quel giorno, tanti anni fa, per la prima volta. Lo fissavo e non so per quanto tempo vi rimasi davanti. Se ne accorse la gallerista che mi si avvicinò e si presentò. Ci misi qualche secondo per accorgermi di essere stato strappato al mio incanto. Era Eugenia Visconte, la titolare della galleria. Sulla quarantina, piccola e tarchiata, truccata in modo spropositato, con tacchi troppo alti che le incurvavano le spalle e la costringevano a comici equilibrismi per muoversi in modo normale, senza ondeggiare come un'oca. Rapito quindi da questa immagine. L'oca è di pura fantasia. Non grazie, si chiamava Visconte, niente, cioè, chiariamo subito. Siamo in un romanzo, siamo sempre in un romanzo, anche se il quadro esiste veramente. Rapito quindi di fronte a questa immagine, a questo quadro, Costantino Morelli comincia a sviluppare una sorta di entusiasmo per l'arte, un interesse veramente travolgente. Soprattutto per lui. Soprattutto per Vasarely. Questa passione lo porta ad entrare decisamente nel mondo dell'arte, nel mondo anche dei galleristi, fino a conoscere una persona, un personaggio femminile che torna nel libro e che ha un'importanza fondamentale, un incontro breve ma veramente importante, pregnante. Ce lo vuoi raccontare un po'? Tu alludi ad Artemisia? No, è veramente alla gallerista, a René. A René, Denise René. Allora facciamola vedere. Eccola qua. Denise René è stata la più importante gallerista del dopoguerra, io direi in tutto il mondo, non soltanto in Europa. È stata in pratica la compagna di Victor Vasarely, anche non si può dire ufficialmente, comunque diciamo compagna quantomeno di lavoro. Ed è stato grazie a Vasarely che lei ha aperto questa galleria d'arte nel 1944. Lei prima aveva una sartoria insieme al fratello e si chiamava in realtà Denise Bleibtreud. Invece poi dopo ha preso il nome d'arte Denise René. René era suo fratello, quindi Denise René. E si è ritagliata veramente uno spessore molto ampio nel campo dell'arte, perché nel 1955, se ricordo bene, ha fatto la mostra che è entrata nella storia dell'arte, sull'optical art, e lei ha lanciato veramente tanti, ma tanti artisti. Ad esempio Mondrian, che penso molti di voi conoscete, fu lei a fare la prima mostra di Mondrian, fu lei a fare, che molti non lo sanno. E poi vari François Morellet, Yves Arral, Francesco Sobrino, e anche Chagall. Cioè. Però in realtà lei era orientata verso l'arte astratta, strutturale, geometrica. E Vasarely ne era, diciamo, il fondatore, si può dire quasi, anche se poi dopo aveva studiato prima il Bauhaus, e quindi c'erano già, c'era ad esempio Malevich che già faceva di questi lavori qua. Comunque Denise René era una donna pazzesca, era una piccolina, minuta, ma aveva un'energia pazzesca e soprattutto, come ho detto, era il catalizzatore dell'arte moderna a Parigi, perché all'epoca a Parigi, prima di New York, ma nel dopoguerra fino agli anni 70, Parigi era la capitale d'arte in Europa e al mondo. Quindi abbiamo un personaggio reale che è Vasarely, su cui si regge l'intero libro, ma qui abbiamo un personaggio reale che entra nella storia, perché Costantino proprio la incontra. Esatto. Questo è un tratto veramente particolare. Chissà cosa ne direbbe Denise René di trovarsi all'interno di questo libro. Tu cosa ne dici? Sarebbe sorpresa, quantomeno sorpresa. Sì. No, perché il protagonista, questo Costantino Morelli, volendo studiare e studia in tutti i modi questo suo artista preferito, questo Victor Vasarely, che purtroppo però è morto, quindi lui avvicina tutti i conoscenti, avvicina tutta la gente, i galleristi che l'hanno trattato, ma soprattutto vorrebbe parlare con Denise René. Viene a sapere che Denise René, pur avendo 94 anni, ancora di tanto in tanto va nella sua galleria, e quindi la contatta e riesce ad avere un incontro con lui, con lei. Sì, sì. E questa storia è storia. È storia. Ok, il nostro Costantino, appassionato d'arte, incontra la gallerista, compra, acquista un sacco di libri, un sacco di quadri, scusate, è perché siamo in una biblioteca, acquista un sacco di quadri e entra in questi circuiti, insomma, dell'arte contemporanea. Parallelamente ha la sua vita da imprenditore, insomma, sì. Le sue aziende le porta avanti, ma le cose non vanno molto bene. E cominciano ad andare sempre peggio, fino al punto in cui veramente vanno molto male le cose. E Costantino ha questo momento di disperazione, un momento che è un po' il punto di svolta, no? Anche della storia che ci hai raccontato, un momento di disperazione in cui ha pensieri non solo molto negativi, ma veramente pensa di porre fine alla sua vita. Suicidi, sì. E vogliamo sentire questo brano. Do la parola ancora una volta a Patrizio, che ci accompagna con queste letture. Era notte, una notte di fine giugno. Ricordo tutto, Amedeo, come se fosse accaduto ieri. Pur immerso nella mia apatica depressione, trovai la forza di uscire per strada. L'aria era frizzante, pungente, stava per iniziare a piovere. Mi diressi verso il parco San Severo e, seduto su una panchina, mi chinai a raccogliere un pugno di sabbia, passandomela da una mano all'altra, come facevo da bambino sulla spiaggia al mare. Brandelli di pensiero migravano nella mia mente senza criterio, in un incessante turbinio senza fine. Quanti granelli di sabbia ci stanno in una mano? Di quanti giorni è composta la mia vita di 56 anni? 20.000 circa? E di quanti ho ricordo? 200, 300, 1.000? La vita, un ricordo, una sequenza di immagini sbiadite, sfalsate, inventate. A Bulico osservo i granelli di sabbia che sfuggivano dal mio pugno chiuso. Cadevano e si disperdevano come i miei sogni, le mie fatiche, i giorni della mia esistenza. Non sapevo cosa fare. Immerso nel mare della mia depressione, mi alzai e mi diressi verso il centro città. Vagavo ramingo come un automa senza meta, ascoltando il ticchettio ritmico della pioggia sul selciato, sottofondo musicale della mia solitudine. Non c'era direzione. Erano le mie gambe che mi portavano dove volevano, senza che io le dirigessi. Il vento mi trasmise le note di una musica distante. Era un refrain che conoscevo, che risvegliò in me sopiti ricordi. Don't you forget about me. Don't you forget about me. A simple mind. Che bei tempi. Che bei ricordi, i tanti balli con Mara. Lei adorava questo motivo. Mara non c'era più. Forse non c'era mai stata. E i rimpianti dilatano le emozioni. E ora la malinconia è un ospite ingombrante e dolorosa che ti costringe a viaggiare a ritroso nel tempo. Un tempo tutti mi rispettavano, ora non mi fila più nessuno. Neanche mi muovo con la mia abituale sicurezza. Sono l'ectoplasma di me stesso. Non mi riconosco più. Sono diventato un OGM, un organismo geneticamente modificato. E pensare che una volta, ero un enfant prodige. Tutto quello che toccavo si trasformava in ricchezza, gioia, entusiasmo. La marea di amarezza mi travolse al ricordo di quando, trentenne, pareva che il mondo fosse ai miei piedi. Le mie attività all'epoca andavano a gonfie vele. Avevo soldi a palate, ero circondato da belle donne, guidavo macchine prestigiose che cambiavo ogni anno. Ammirato, rispettato, invidiato. Mi concedevo tutti i lussi, ivi inclusi i periodi di almeno 3 settimane di vacanze, che annualmente passavo nei posti più incantevoli del pianeta. Caraibi, Seychelles, Argentina, Israele, Marocco, Nuova Zelanda, Messico. Work hard and enjoy hard. Era stato fin dall'inizio il mio motto. Tanto lavoro, tanti sacrifici, ma anche tante belle soddisfazioni, gioie, divertimento. E ora mi sento come un disabile emotivo, seduto su una sedia a rotelle immaginaria. Avrei bisogno di fare degli esercizi di riabilitazione. Di quale mia metà, però? Di quella splendente che non c'è più? O di quella miserabile che c'è ora. Non ho più la forza per reagire. Dopo 20 anni abbondanti, dove sono finito? Come vivo? Ora faccio una vita da spiantato. Ma che dico? Peggio di uno spiantato. Quello non ha debiti. Io li ho col mondo intero. Sono seppellito dai debiti. È finita, Costantino. È finita. Sei finito. Fra pochi mesi verrai travolto dagli insoluti che ti sei fabbricato. L'ultimo chiodo battuto nella tua bara. Capiranno la losca manovra e allora la banca ti toglierà tutto quello che hai. Ti tratteranno da delinquente, da frodatore, come ti meriti, perché quello sei. Appendi i guanti al muro, ex campione. Il tuo tempo è scaduto. Esci da questa recita con dignità. In fin dei conti te la sei goduta, vecchio mio. Fanculo, fanculo a tutti voi bastardi. Non mi vedrete mendicare briciole di ipocrita commiserazione. Sì, Amedeo, Erano questi i pensieri che attraversavano la mia mente. Fu il momento più critico nell'oceano della mia depressione, sicuramente il peggiore della mia vita. Mi sentivo smarrito nel labirinto della mia esistenza e stavo officiando il rito funebre della mia resa definitiva. A volte la disperazione reclama il suo tributo. Come avrete capito, in questo libro trovate veramente di tutto, no? Abbiamo parlato prima dei molti argomenti che vengono trattati da Costantino e poi ci sono anche queste pagine più intimistiche, piene di nostalgia e piene anche di disperazione. In questo libro si trova anche un sottile, ma neanche troppo, ragionamento sul falso e il vero, su che cos'è certo. La verità. E che cos'è la falsità? Quando siamo entrati in questa sala era proiettata una frase, un brano del libro, anche in questo caso, in cui si faceva riferimento, ok, al falso nel mondo dell'arte, ma non solo, in realtà a tutto il falso, diciamo, che ci circonda. Siamo nel periodo delle fake news, siamo nel periodo della riproducibilità praticamente di ogni cosa, addirittura le clonazioni, esatto, e così via. Esatto. In questo contesto, che senso ha parlare di falso o di vero? Infatti questo, diciamo, è il tema principale forse del romanzo, questa dicotomia falso, vero, finzione, realtà. No? E infatti poi dopo diciamo che per un due capitoli c'è anche una trasgressione, diciamo, verso un indirizzo filosofico, no? Dove appunto il nipote gli chiede: ma nonno, cos'è la verità? Nonno, cosa significa falso, vero? Cos'è la realtà? Allora lui gli spiega, insomma, quello che secondo lui è la realtà, la falsità, citando poi dopo anche i vari filosofi dell'antichità e non solo. E in realtà, diciamo che gli cita poi dopo anche un paio di aneddoti molto interessanti sulla falsità, come ad esempio quello che era successo al Salone di Torino, qui siamo però nel campo della editoria, il famoso episodio del Madalon, no? In cui sono caduti tanti personaggi anche molto conosciuti, come lo stesso Vittorio Sgarbi, che ho citato. Infatti è stata una beffa pazzesca. Se voi leggerete il libro o se andate su internet lo vedrete. O l'altra beffa che sappiamo soprattutto nel campo dell'arte è quella dei tre ragazzi che avevano scolpito le famose sculture Modigliani, no? E che tutto il mondo dell'arte in tendenza in primo luogo aveva presi per veri, no? Oppure i falsi diari di Hitler. E questo era accaduto, se non vado errato, nell'83-84, dove la prestigiosa rivista Stern, che è un settimanale che va per la maggiore in Germania, aveva declamato, chiaramente raccogliendo intorno a sé tutta l'editoria, eccetera, che erano in possesso dei diari di Hitler. No? E quindi la prima edizione di questo Stern, che loro poi dopo avevano detto che avrebbero pubblicato, questa prima edizione di Stern con questi diari di Hitler aveva venduto milioni di copie e tutti volevano accaparrarsi ovviamente le traduzioni. E poi dopo, dopo una decina di giorni, si è capito che invece questi diari erano falsi, perché erano stati scritti su delle pagine che contenevano degli elementi che presenti soltanto a partire dagli anni 50 in poi. E qui siamo nel campo dei veri falsi, diciamo. No? Siamo nel campo dei veri falsi. Ci sono però questioni più ampie, no? Proprio nel campo dell'arte, scrivi nel libro che molti artisti non sanno riconoscere le proprie opere perché ne hanno prodotte così tante che ovviamente non hanno un catalogo. No? Sì, ma l'ex moglie di Giorgio De Chirico aveva detto che lui faceva, che i quadri di De Chirico si potevano suddividere in quattro scomparti, diciamo, i quadri veri, i quadri falsi, i quadri quasi veri e i quadri quasi falsi. I quadri veri erano quelli che aveva fatto lui. I quadri quasi veri erano quelli che aveva fatto lui, ma aveva retrodatato agli anni importanti di De Chirico. I quadri quasi falsi erano quelli che venivano sfalsati e però lui li firmava. Perché poi nelle botteghe d'artista, diciamo così, già in un passato lontano, insomma, c'era questa pratica. Sì, sì, no? Sì, ma anche nel Medioevo. E poi dopo c'erano i falsi veri, cioè i falsi che venivano falsati senza che lui lo sapesse. Insomma, ecco. Quindi in realtà anche qua sono citate appunto nel libro un paio di episodi al quale ad esempio il protagonista assiste, dove c'è un noto pittore, adesso è morto, allora non è ancora morto, un noto pittore che va per la maggiore o che andava per la maggiore in Italia, che si faceva fare i quadri dai filippini, cioè dal suo personale filippino, e lui li firmava. Esistono anche queste cose. Esistono anche queste cose. Siamo ormai in conclusione. E mi piacerebbe concludere con le parole del libro, quindi faccio ancora una domanda a te e poi, se sei d'accordo, andiamo appunto ad ascoltare ancora un brano e poi vediamo se magari tra il pubblico c'è qualcuno che vuole fare una domanda, si faccia vedere ovviamente. Sì, quel brano voglio dire lo leggiamo in due, sì, lo leggiamo assieme. Benissimo, allora è proprio la degna conclusione. La degna conclusione. Però prima di lasciarti, vabbè, abbiamo sentito i titoli dei tuoi libri passati, cosa ci dobbiamo aspettare ancora da Clambagio? Beh, ne sto ultimando un altro, che però c'entra, diciamo che qua in Alto Adige forse solleverà qualche polemica, ecco. Non dico di più. Adesso è incuriosito veramente, quindi tutti sulle spine fino al momento. Comunque, della prossima presentazione. Non è un romanzo storico, è una metafora comunque, ma si capisce che si parla dell'Alto Adige. Bene, curiosissimi. Sì, ecco, se ci fosse qualche dubbio adesso non c'è più. No, ma si capisce veramente fin dall'inizio. Bene, allora andiamo a concludere con questo brano in cui Costantino Morelli ci parla dell'arte, di quello che lui pensa dell'arte. Di quello che lui pensa dell'arte moderna contemporanea, diciamo. Si parla sempre di arte ad alto livello, non dell'arte normale, insomma. Dell'arte quotata alle aste a milioni e milioni di dollari o milioni e milioni di euro. Chiederei se in sala qualcuno ha una domanda o vuole fare un intervento. Sì che c'è. Semplicissimamente, dove è ambientato? No, nel microfono perché sei in registrazione. Volevo semplicemente chiedere dove è ambientato questo romanzo. A Chieti. C'è... Ah, ecco. A Chieti, ho scelto la città di Chieti. Perché c'è un riferimento al parco, prima al parco San Severo, mi chiedevo appunto dove fosse. Okay. Non è ambientata a Chieti. Grazie. Così per caso l'hai scelto? Sì, più o meno sì. Ok, grazie. Beh. Altre domande? Niente, tutti ansiosi di ascoltare l'ultimo brano. Benissimo. A voi la parola. Allora devo prendere un libro anch'io, però non c'è qua. Eccolo qua, grazie. È la mia copia, che poi torni indietro. Sì. Non hai detto una sola parola sull'arte contemporanea. Ti piace? No. Non quella che va per la maggiore. Microfono. Non quella che va per la maggiore. Quella quotata, intendo. Vedi cosiddette opere esposte nei musei e alle manifestazioni più note che sono un insulto alla ragione comune. Vai alla Biennale di Venezia e vedi opere sconcertanti. Sagome di pecorelle dipinte di blu, gigantesche maschere a gas, cumuli di bottiglie sparse per terra, sale intere coperte di pannocchie di grano turco, tele immense bianche con un piccolo puntino blu centrale. Ti pare arte questa? No, di certo. Hai ragione, nonno. D'altronde, perché meravigliarsi? Negli ultimi anni ne abbiamo visti di tutti i colori. dal letto sfatto di Tracy Emin all'uomo attaccato alla parete con il nastro adesivo di Maurizio Cattelan, dallo scaffale con le pillole di Damien Hirst alle opere gigantesche metallo di Jeff Koons, che riprendono le forme di animali e fiori. Stiamo parlando degli artisti più famosi e più quotati nei nostri giorni. Per una di queste grandi opere, Jeff Koons pochi anni fa ha incassato la cifra astronomica di 34 milioni di dollari. Una cifra pazzesca. Ti rendi conto? Di cosa stiamo parlando? Di arte? No. Parliamo solo di mercato, di speculazione, di intralazzi e raggiri, di furbizie e furfanterie. Se però ti azzardi a criticare, ti rispondono che non comprendi la profondità del linguaggio artistico, il codice di interpretazione, il messaggio sublimale e metaforico dell'artista, la sua analisi introspettiva e diozie di questo genere. Lo stesso vale anche per i quadri astratti, Un qualunque pittore astrattista che fa delle croste, ma che ha delle capacità economiche di farle pubblicare su un bel catalogo patinato, con delle recensioni di autorevoli critici, automaticamente si promuove. Le hai mai lette le recensioni di certi critici d'arte? Le parole che usano? No, sentiamo. Ce ne sono bizzeffe. Tipo la pennellata che si sottrae alla foga distruttrice dell'immagine, i colori che dilatano i ricordi della malinconia, l'immersione di ombre che evocano i fantasmi del passato, l'esplosione della materia che lacera i fondali imperscrutabili dell'immaginazione, la collisione tra pigmenti che generano un'instabilità interpretativa in bilico tra delirio e indifferenza, la forza icastica dell'artista e via di questo passo. Fiumi di parole senza senso. Fiumi di parole. Affiorò alla mia mente il titolo di una canzone che tanti anni fa aveva vinto il Festival di Sanremo. E poi la bella canzone cantata da Mina insieme ad Alberto Lupo. Parole, parole, parole. Come in uno schermo rivedevo davanti a me il duetto famoso dei due grandi artisti. Non era la prima volta che realizzavo la potenza evocatrice della musica che risveglia immagini perdute nel tempo, ma era la prima volta che percepivo pienamente come anche la parola possa disseppellire melodie e immagini tumulate nei cassetti della memoria. Però devo ammettere, Amedeo, che certi artisti come Damien Hirst sono dei geni. Non geni dell'arte, bensì della comunicazione. Veri talenti nel creare il proprio brand. È quello che si vende oggigiorno nel campo artistico, il brand, non l'oggetto. Sul serio? Cosa ha fatto? Hai presente lo squalo imbalsamato sistemato in una gigantesca teca di vetro esposto al Metropolitan Museum di New York e venduto per 12 milioni di dollari? Sì. Io l'ho visto. Era proprio il periodo in cui ero andato negli States per i due quadri di Vasarely. L'installazione era sicuramente suggestiva, ma non impressionante o sconvolgente. Peraltro, un'idea ripresa da un precedente artista che non aveva avuto nessun successo. E sai perché invece Hirst lo ottenne quell'incredibile successo? Perché? Sono proprio curioso. Perché ebbe la geniale, ma proprio la geniale idea, di chiamare l'opera The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Che significa l'impossibilità fisica della morte nella mente di un essere vivente. Capisci, Amedeo? L'avessi chiamato squalo imbalsamato, non se lo sarebbe filato nessuno. I visitatori l'avrebbero osservato con una certa curiosità, commentando che sì, è proprio uno squalo, e se ne sarebbero andati. Così invece, con questo titolo metafisico, trascendente, lo squalo accende la fantasia. Innesca la riflessione sull'opera, diventa attrazione, materiale di dibattito per i media, crea e attiva interesse, fa lievitare il suo valore. Un capolavoro di strategia comunicativa e di marketing, l'autopromozione che costruisce il brand Damien Hirst. Infatti, da quel giorno, le sue opere raggiunsero quotazioni iperboliche. In pratica è la pubblicità che promuove l'arte. Ben detto, caro, ben detto. L'arte, quella moderna dei nostri giorni, è soprattutto l'espressione di una realtà commerciale. La valutazione di un prodotto, il romanzo, la canzone, il quadro, la scultura, i film, sono tutti prodotti il cui valore viene stabilito dal mercato e dalla pubblicità che li promuove. Bene, ringraziamo allora tutti quelli che sono venuti ad ascoltare questa presentazione, ringraziamo Claudio Bianchetti di essersi messo a scrivere e di aver prodotto questo Ironta, tutti pazzi per Victor. A tutti voi buona serata e ovviamente buona lettura. Adesso volendo ti fermi qua, vero? Per qualche firma qua, eventualmente. Sì, che c'è, io ringrazio anche la libreria Capelli che è venuta, che mi sostiene anche, e se qualcuno vuole prendere il libro c'è in fondo e poi dopo... volete l'autografo? C'è qualcuno che vuole forse fare una domanda? Ah, c'è una domanda ancora. Arrivo, Buonasera. Scusate, forse avete già trattato questo perché sono andata nella biblioteca sbagliata, sono arrivata un po' in ritardo. Volevo sapere qual era il reato a cui si riferisce? Bisogna leggere il libro. Sì. Okay. Va bene. Però c'è un'altra cosa. Come si collega questo concetto della falsità dell'arte al concetto della falsità della società contemporanea? Bisogna leggere il libro. Vediamo se sì, il nostro autore ha una risposta. La domanda è molto pertinente, perché in realtà la falsità nella vita che conosciamo noi, soprattutto nella comunicazione con le fake news, eccetera, una volta, voglio dire, 200 anni fa o 300 anni fa non c'era. Però già allora, si falsificavano ad esempio i quadri, nel senso che ad esempio è noto che Michelangelo ai suoi esordi faceva delle sculture che erano in pratica delle scopiazzature delle sculture greche, e quindi partendo dal concetto della falsità dell'arte, poi dopo nel corso del romanzo si passa alla falsità della società contemporanea. Adesso fioccano le domande. Visto che la signora ha fatto questa domanda, io ce l'avevo in testa prima, perché casualmente, proprio come spesso capita nella vita, ieri mi sono trovata in un agriturismo qui in zona a parlare con un noto commerciante d'arte. E a un certo punto si parlava proprio dell'arte contemporanea e si parlava del fatto, lui raccontava, che oltretutto adesso c'è anche, mi diceva, un grosso problema di rischio, perché... questi nuovi artisti, la cui valutazione, come stavi dicendo tu, è legata alla pubblicità, ai media e a quanto, diciamo, vengono pubblicizzati proprio, così come raggiungono l'apice del successo, molto spesso spariscono poi anche molto velocemente e di conseguenza il valore delle loro opere crolla improvvisamente. La tua domanda, Elisabetta, è molto pertinente. Intanto cominciamo a dire una cosa, che l'arte viene vista oggi soprattutto come mercato. Parliamo ovviamente di arte, di quadri quotati, no? Se ad esempio uno ha un quadro di Hans Hartung, per dirne una che ha acquistato, non so, 10 o 20 anni fa, quello è proprio un bene rifugio, no? Peraltro anche fiscalmente poco perseguibile, insomma, voglio dire, ecco. Comunque è diventato veramente un grosso business. Pensate che nel 2023, cioè l'anno scorso, furono battuti a tutte le aste mondiali quadri e opere per 67 miliardi di dollari. Cioè una cifra pazzesca, paurosa, no? E quindi ormai è diventato veramente solo un mercato. È tanto vero che, e questo lo racconta anche il protagonista nel romanzo, lui alla fine si disinnamora dell'arte come concetto, proprio perché ci sono artisti che magari 10 anni prima valevano 30.000 euro e adesso ne valgono 2.000, e viceversa chi valeva 2.000 euro improvvisamente ne vale 50, no? Proprio solo perché magari conosce un mecenate, conosce qualcuno che lo promuove. E quindi lui vede che è tutto un business e che non c'è più la vena artistica vera e propria. Ecco. Penso bene, che mi sembra che ci siamo. Io ringrazio personalmente te ovviamente, ringrazio Patrizio, ringrazio tutti gli intervenuti e come hai detto tu giustamente prima, se qualcuno vuole che gli autografi il libro, ben volentieri lo faccio. E buona lettura. Buona lettura a tutti.